Siamo con Davide Ferri, curatore dell'esposizione Naked Room. E io direi di iniziare parlando dell'artista protagonista per questa esposizione Banca di Bologna nella Sala dei Convegni per Art City 2025. Cosa ci può dire? Allora, l'artista che quest'anno abbiamo selezionato e invitato a svolgere una grande mostra personale all'interno di Palazzo dei Toschi è Peggy Frank, un'artista olandese del 1976, vista poco in Italia, anzi direi in una personale del tutto inedita. E è un lavoro che necessita di una definizione, direi, quello di Peggy Frank, perché utilizza apparentemente medium diversi. Si svolge però a partire da questo grande dipinto, con pennellate, le definirei multidirezionali e instabili, realizzato su alluminio e in orizzontale all'interno del salone. Io stesso ho avuto bisogno di chiedere in diverse occasioni, e l'ultima volta pochi giorni fa, proprio a Peggy se si sentisse o se si sente integralmente e del tutto una pittrice, e lei con una certa nonchalance, con quella naturalezza che la contraddistingue, mi ha risposto: sì, certo, lo sono. Allora questa sua sicurezza nel rispondere alla mia domanda mi ha fatto subito pensare che il lavoro di Peggy Frank è un lavoro di pittura espansa, un lavoro di pittura che esonda, che stripa e che si colloca nel territorio, diciamo così, della pittura espansa. Noi abbiamo grandi esempi nella storia degli ultimi decenni, basta nominare per esempio Katharina Gross, no? Il suo modo esorbitante di occupare lo spazio attraverso pigmenti, colore, ma ci sono tanti altri riferimenti e rimandi che si possono fare per collocare, diciamo così, storicamente il lavoro di Peggy Frank. Queste però sono solo premesse, perché direi che alla base del lavoro di Peggy Frank ci sono due aspetti. La prima è questa non coincidenza tra immagine e supporto, che è una delle questioni fondamentali della pittura. Cioè questa pittura di Peggy Frank sfugge, si muove, migra di supporto in supporto. Qui, per esempio, in questa mostra c'è l'alluminio, la base di alluminio, ma anche delle semplici carte che sono pagine di magazine e riviste strappate su cui l'artista ha dipinto, e poi ci sono delle fotografie dove la pittura viene soltanto fotografata. Quindi non coincidenza fra immagine e supporto e gesto alla base del lavoro di Peggy Frank, gesto che è proprio il modo che l'artista ha di appropriarsi dello spazio, di vivere lo spazio, un gesto che è, diciamo, sempre traccia del corpo e dei movimenti del corpo, ma al contempo anche un gesto ambiguamente autoriale, perché fa pensare per esempio a quello di alcuni grandi artisti che lei ama molto, primo fra tutti probabilmente De Kooning, che è olandese originariamente, sì, come lei, e che ha un gesto direi libero, multidirezionale, che però lascia sempre sentire la presenza della carne, del corpo, che è un aspetto anche che in qualche modo identifica il lavoro di Peggy Frank. Anche queste sono solo premesse, antefatti, perché la cosa sostanziale della mostra di quest'anno di Palazzo dei Toschi è che lei ci ha chiesto sin dall'inizio di poter abitare lo spazio il più a lungo possibile. Stare dentro Palazzo dei Toschi, tutto quello che vediamo attorno a noi è site specific, vuol dire che l'artista è stata delle giornate intere dentro Palazzo dei Toschi e vuol dire che piano piano ha trascinato questo spazio verso la dimensione proprio dello studio. Lei dice: tutte le mie mostre finiscono per somigliare al mio studio, per quella componente di non finito, di irrisolutezza che le contraddistingue. Oppure anche uno spazio domestico, uno spazio abitativo, questo è l'altro riferimento che si può usare per questa mostra. Ecco, non c'è niente di più diverso da uno studio o da uno spazio domestico del salone della banca di Palazzo dei Toschi, che invece è un luogo, diciamo così, ufficiale, un luogo istituzionale, un luogo per convegni, un luogo per ricevimenti. Le sedie in fila, esattamente. No? Invece noi queste sedie le abbiamo tolte, naturalmente, ma lei ha chiesto anche di più. Ha chiesto di togliere, per esempio, tutte quante le tende alle finestre, di far entrare la luce del sole. Insomma, noi questa stanza gliel'abbiamo consegnata nuda, spoglia. E qui proprio il titolo della mostra, perché lei la potesse abitare nel modo in cui lei avrebbe voluto abitare lo spazio. Ne è venuta fuori questa mostra dove il pavimento è un pochino questa superficie di alluminio, è un pochino il territorio sulla quale l'artista si è mossa, e però piano piano questa composizione dello spazio, che si è svolta soprattutto attraverso la pittura, ma non soltanto, è andata espandendosi, e allora noi vediamo comparire accanto al dipinto degli oggetti, ad esempio queste lampade a stelo, che sono in fondo un altro materiale o idealmente un prolungamento del movimento serpentinato sinuoso di queste pennellate. Basta vedere l'intreccio di fili rosso mattone e come in qualche modo sviluppano in una forma tridimensionale il movimento delle pennellate. E poi tutti questi oggetti, che non saprei neanche nominare perché sono oggetti di risulta, oggetti trovati, che si dispongono in cumuli o in grovigli, diciamo così, però se uno li va a guardare da vicino, anche questi prolungono energeticamente il movimento di queste pennellate. E poi la fotografia che mostra pittura soltanto dipinta, e questa pittura soltanto dipinta è relativa a un passato, a un indeterminato prima, sono foto di interventi del passato, oppure sono che scatta l'artista stesso, di pittura, quindi interventi di pittura negli spazi, in spazi diversi, oppure la fotografia dell'intervento che lei ha realizzato nel salone, che idealmente apre la mostra, quindi lo spettatore vede prima un frammento, una testimonianza di quello che poi compiutamente vedrà dopo. Quest'anno abbiamo deciso di non utilizzare il solito ingresso, ma un ingresso laterale, quasi di servizio. Infatti mi sono perso. Proprio per dare l'idea di questa domesticità, di questa dimensione di studio, che è la cosa fondamentale della mostra. Insomma, per tornare alla domanda iniziale, la pittura di Peggy Frank, il lavoro di Peggy Frank è un lavoro di pittura? La risposta è sì, a patto di considerare questa tavolozza composita eterogenea, che è la tavolozza dell'artista, e a patto di considerare lo spazio tutto, e non soltanto un rettangolo di tela sì. Sul telaio appesa compostamente a parete, la cornice nella quale si iscrive questa pratica di composizione pittorica. Grazie, buona giornata.